secca. E è fatta apposta, tu ognuno mo che se la risposta. Molese capa tosta che ti chiude shock. Da sopra un bitu se canna ma sposta. Utenga sembi e sto movimento. Ci venga che chiude da chiù, da chiù si sente. Chiubi saghe che se la coppiate. Da guagno ci da ammazzate, mo collaudate. E già già venga bro basato, no problema. Rime a catena, li vidi sulla schiena. Puoi provarci e riprovarci, ma noi tra le vittorie continuiamo a spreganarci. Informarci può esserti utile, prepararti sa che può sembrarti facile. L'indole forse non ti accompagna, subdole non sei pochi abbastanza. L'ansia che ti prende sale su, prozze casereccio che si è la tribù. Muvu mola cap sem su e giù, tu sei carino no, un film più. Nanza sa, poi campa come sa fascia. Nanza sa quando ha fatto son brughiata. Nanza sa quando ti mi sono sprecata. Nanza sa no, Nanza sa no. Nanza sa, poi campa come sa fascia. Nanza sa quando ha fatto son brughiata. Nanza sa quando ti mi sono sprecata. Nanza sa no, Nanza sa no. Nanza sa più c'è ben da tira. Quando cancio fascia sembra volta bandire. Mira a spazione te sofferte. Chi le de perdona ma su stesse. Fesserezza sembra una disperazione. Bella bella venga pure c'è sta chiova. Mola che sia nuova scuola. E rino come un upavone picchia e vola. Solo solo mo meno bocca. Faccio rap se cabuna stock. Solo solo mo meno bocca. Faccio rap se cabuna stock. Nanza sa quando ha fatto son brughiata. Nanza sa quando ti mi sono sprecata. Nanza sa no, Nanza sa no. Nanza sa poi campa come sa fascia. Nanza sa quando ha fatto son brughiata. Nanza sa quando ti mi sono sprecata. Nanza sa no, Nanza sa no. Non ci credi. David. You.